La mia sensazione netta è che Berlusconi abbia perduto la testa e che in questo momento il PDL rappresenti un pericolo per la democrazia. Sì. Di fronte a un Senato convocato per di fatto produrre una lettera di accompagnamento di un documento inesistente, che è la stessa di quello che è stato pubblicizzato sì, quest'estate, e che non ha alcun rilievo, e che è sostanzialmente un mezzo per intorbidire le acque e parlare d'altro, mentre non si dovrebbe parlare, secondo qualcuno, della questione morale straordinariamente grave che colpisce in pieno e personalmente Berlusconi. E nel frattempo si lanciano accuse verso, casualmente, verso Bocchino, Briguglia e Granata. Ho letto, sul Panorama, sì, adesso ne parleremo. No, tanto, ma su una serie di questioni, ho letto anche adesso un servizio sulla 7, su Fantomatiche Società. Guardi, su questo punto si apre, come dire, un conflitto politico e anche un conflitto che sarà portato in altre sedi, perché ciò che è certo è che la nostra militanza politica, la mia militanza politica, è sempre stata improntata alla legalità più assoluta. Ho fatto soltanto politica, non ho mai fatto affari. Chiunque si permetterà di portare dentro questa vicenda questioni inesistenti, poi dovrà rispondere in ogni sede, ma penso che non sia questo. No, però Granata, mi scusi.